America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Barack Obama riceverà oggi alla Casa Bianca Trump. Sarà il primo incontro formale tra il presidente eletto e il presidente uscente. Devo dire, il processo per la transizione dei poteri in America funziona sempre al meglio ed è già cominciato. Sentiamo Obama. I have instructed my team and work as hard as we can to make sure that this is a successful transition for the president-elect. Il presidente ha parlato dal giardino delle rose, ha dato un messaggio di riconciliazione nei confronti di Donald Trump. Devo dire, i due non è che fossero mai andati molto d'accordo, eppure Obama ieri ha detto: la presidenza e la vicepresidenza degli Stati Uniti sono più grandi di ciascuno di noi, ora facciamo il tifo per il successo di Donald Trump, dobbiamo riunire questo paese, dobbiamo guidarlo verso il successo perché siamo parte di una stessa squadra e io farò di tutto perché il nuovo presidente possa fare il meglio possibile. Ecco, questo è il modo in cui la giornata dopo elezioni difficilissime il paese guarda al futuro. La rivoluzione che c'è stata, la grande rivoluzione che per la prima volta nella storia americana, tra l'altro, ha portato un outsider della politica alla guida degli Stati Uniti. Ecco, questa rivoluzione è già rientrata nei ranghi delle procedure costituzionali. È stato lo stesso Donald Trump, devo dire camaleontico, imprevedibile, brillante, ad aver indossato i panni del leader magnanimo nella vittoria. Lo ha fatto nel discorso di accettazione dell'altra sera, perché poi da allora naturalmente non lo abbiamo più sentito, ma l'altra sera ha fatto un intervento chiave perché ha intranquillizzato i mercati che stavano perdendo nei future circa il 4-5% da Tokyo a Londra, all'Europa, agli Stati Uniti. Ecco, poi già ieri si sono calmati molto i mercati e alla fine hanno chiuso con dei guadagni superiori all'1%. Che cos'è che ha contribuito a questo cambiamento? Beh, il fatto che Donald Trump ha parlato con umiltà, ha detto di voler chiedere consiglio a chi era contro di lui, perché ha detto dovremo lavorare insieme. E nel frattempo la squadra per la transizione, guidata dal governatore del New Jersey Chris Christie, la squadra che dovrà formare la nuova amministrazione di Donald Trump, è già al lavoro per identificare ministri, ambasciatori, consiglieri, giudici che formeranno la nuova amministrazione e la nuova leadership repubblicana. Per il Tesoro si parla di Steven Mnuchin, che è un ex banchiere, un banchiere che aveva lavorato anche per Goldman Sachs, era il capo del suo comitato finanziario. Per gli esteri il senatore Bob Corker, per gli interni Forrest Lucas, che è un petroliere. E poi ci sarà un pensiero un po' per tutti quelli che hanno sostenuto Donald Trump, in particolare Rudy Giuliani, Newt Gingrich e lo stesso Chris Christie. Ma una delle prime decisioni importanti di Donald Trump riguarderà proprio la nomina di un giudice della Corte Suprema al posto di Antonin Scalia. Diciamo subito che il Parlamento è rimasto sotto il controllo repubblicano, c'è soltanto un seggio di differenza al Senato, però il Senato è a maggioranza repubblicana. Con il Parlamento sotto controllo, per Trump non ci saranno problemi nei prossimi 2 anni a nominare praticamente chi vuole. Però devo dire, questa prima nomina sarà anche la cartina di tornasole per capire se Trump sarà un presidente inclusivo, come ha promesso di essere nelle prime ore dell'alba di ieri, oppure divisivo, come vorrebbero molti dei suoi compagni di partito. You know, the system, folks, is rigged. It's a rigged system. The economy is rigged. The banking system is rigged. Ecco, vi ho fatto ascoltare un Trump aggressivo, duro. E dunque c'è un interrogativo di fondo: quale sarà il vero Trump che andrà a sedersi nella poltrona dell'ufficio ovale? Ecco, il Trump che, per dirla come Shakespeare, rappresentava la rabbia della paura, e lo abbiamo ascoltato in questa dichiarazione di poco fa, oppure quello che abbiamo ascoltato nel discorso per il trionfo elettorale dell'altra sera? Da una parte un Trump aggressivo, irriverente fino all'insulto, dall'altra un Trump moderato, prudente, persino umile. Chiediamoci anche, ci sarà uno spostamento al centro di Donald Trump? Ecco, un messaggio in qualche modo ce l'ha dato l'altra sera, perché ha detto che il suo continuerà ad essere un movimento. E lui continuerà a operare nella tradizione dell'eroe solitario contro tutti, contro l'establishment della capitale, contro le burocrazie, contro le agenzie federali, contro i democratici, ma il movimento è una cosa diversa dal partito e forse Donald Trump vuole mantenersi dei margini di manovra per poter decidere a modo suo, come ha sempre fatto. Anche perché dal prossimo 20 gennaio Trump, questo è un po' un paradosso, diventerà a sua volta establishment e si accorgerà quanto scottante e difficile sarà la poltrona che andrà a occupare in un'era in cui la protesta, se delusa dalle promesse, si rivolta con la stessa rapidità con cui aveva deciso di dare fiducia. Tra l'altro, proprio ieri sera qui a New York ci sono state delle dimostrazioni, ma delle dimostrazioni impressionanti. Mi è capitato di incrociarne una sulla Sesta Avenue. C'erano almeno 5.000 studenti, tutti giovanissimi, ventenni, che marciavano per strada, si dirigevano verso la Trump Tower con degli slogan contro il presidente eletto: non sarai mai il nostro presidente, non lavoreremo mai con te, Trump dimettiti. Ecco, un messaggio molto diverso da quello che abbiamo sentito dalle leadership, un segnale di quanto la tensione sia forte. Tra l'altro queste dimostrazioni sono state poi anche a Chicago e in altre città americane. Ecco, io credo che dobbiamo augurarci tutti che Trump riesca in questa sua missione di cambiamento, che prevalga il Trump moderato, il Trump riflessivo che non avevamo conosciuto in campagna elettorale, anche perché se fallisse, dopo aver visto quello che abbiamo visto per strada ieri sera, pensiamo cosa succederà nei militanti del Partito Repubblicano, negli estremisti del Partito Repubblicano. Il rischio potrebbe essere davvero quello di avere una rivoluzione cruenta al posto di questa transizione dei poteri democratica e pacifica che abbiamo visto nei giorni scorsi. Il momento ovviamente è difficile, l'America si trova in una condizione ovviamente ancora non facile, ma come dicevo prima, cerchiamo di pensare che lavorare con Trump sia possibile non solo nell'interesse degli Stati Uniti, ma anche in quello dell'Europa, il tradizionale storico alleato degli Stati Uniti d'America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vede più nempi difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, dedichiamola naturalmente a Donald Trump. Donald Trump che si sta già muovendo per la sua nuova amministrazione, Donald Trump che cerca di tenere insieme un paese che potrebbe anche sfuggirgli di mano. Il lavoro è partito, il futuro comincia ora, comincia forse un po' lentamente perché dovremo aspettare il 20 gennaio per l'inaugurazione dunque dei The Kills, Future Starts Slow. New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!